Sapere Esistente è una 3 giorni nata da Sapere Naviganti, un movimento che è nato a seguito di una semplice giornata a sostegno di Mediterranea che si è data a novembre a Scienze Politiche. Da quella giornata in poi ci siamo trovati insieme studenti e studentesse con una grande voglia di mettere in dubbio ciò che ad oggi in Italia sembra normalmente accettato, che sono delle politiche governative assolutamente razziste, patriarcali, che creano morte, che creano povertà. Ragion per cui ci siamo interrogati sull'importanza dei luoghi del sapere, quali sono quelli che frequentiamo noi quotidianamente, appunto l'università, e cosa questi luoghi avrebbero potuto creare in termini di opposizione a tale politiche governative. In questo noi abbiamo provato a raccogliere il contributo fondamentale in questo senso di docenti, esperti e ricercatori per appunto andare a potenziare a livello teorico ciò che di sbagliato crediamo che stia creando l'assetto politico odierno. E per parlare più nel pratico, sarà una 3 giorni in cui si intersezioneranno le tematiche appunto del fenomeno migratorio che hanno contraddistinto il nostro percorso sin dal principio e la questione della lotta femminista, delle questioni di genere in toto, e questo fa parte di un percorso più ampio che noi stiamo portando avanti verso l'8 marzo anche con una collaborazione che si darà con una di meno proprio all'interno della 3 giorni. Comunque si terrà a partire da 28 febbraio a Palazzo Ercolani e proprio questo posto sarà per noi simbolico proprio perché abbiamo avuto dei problemi con la richiesta degli spazi, in particolare di Palazzo Ercolani, ricevendo una chiamata 2 giorni fa dalla prorettrice dell'Univo e che nonostante stia mandando le richieste da 1 mese e mezzo ci dice che Palazzo Ercolani in quanto palazzo storico deve essere adibito solamente a fini didattici, non considerando quindi l'importanza di momenti assembleari, seminari e dibattiti che seppur proposti da studenti dovrebbero assolutamente arricchire la proposta didattica. Quindi anche questa questione è molto importante, che è quella della rivendicazione degli spazi da parte di studenti e studentesse che la attraversano e dovrebbero poterli vivere a 360 gradi, sarà una questione presente durante tutta la 3 giorni. Certo, d'altra parte è molto interessante e importante il fatto che vengano prodotti e vengano discussi dei saperi che si oppongono un po' ai saperi mainstream, diciamo, della cultura di oggi. Assolutamente, sì. I saperi che vengono prodotti e che ci vediamo in qualche modo propinati, diciamo così, nelle nostre facoltà, in università, sono saperi che non sempre tengono in considerazione quello che è il piano politico, soprattutto per quanto riguarda gli studenti e le studentesse di scienze politiche, che però non sono gli unici a comporre Sapere Naviganti, che però ecco non tengono in considerazione quel piano mobilitativo verso il quale secondo noi dovrebbero sempre essere indirizzati i saperi. Sono appunto sì dei saperi che si oppongono, lo riporta il titolo stesso di questa 3 giorni, è Sapere Esistente, e va a richiamare tutta una serie di parole che noi abbiamo evidenziato nella locandina, che sono una solidarietà ormai inesistente purtroppo attorno a noi in questo paese, lo vediamo con tutti i fatti di cronaca che anche in queste 3 giorni andremo ad analizzare, e sì, con saperi assolutamente che ci oppongono. E invece ti volevo chiedere, riguardo al tema dei migranti, della migrazione, come si relaziona questo invece con il tema di genere? Non è sicuramente un caso se noi abbiamo deciso di affrontare queste due tematiche con una stretta vicinanza. A questo proposito ci sarà un'assemblea molto importante che mette insieme queste due questioni e conseguentemente queste due lotte, che vedrà la presenza del docente di filosofia politica Sandro Mezzadra, che non attivista è ugualmente attiva politicamente e ugualmente preparata sulla questione di genere, la professoressa di Roma 3 Enrica Rigo. Questa stretta vicinanza fra queste due tematiche secondo noi è molto importante da sottolineare ed è molto importante interrogarsi, in quanto crediamo fortemente che ad oggi a livello globale, non solo a livello Italia, a livello micro, la lotta femminista sia qualcosa che riesce a creare mobilitazione sociale e a mettere in crisi quelle che sono le politiche patriarcali delle nuove destre. Dall'altra parte i fenomeni migratori sono qualcosa che continuamente, probabilmente proprio per l'assenza di capacità di gestirli con politiche serie e strutturali e non con le solite politiche emergenziali, sono fenomeni appunto che stanno mettendo in crisi le statualità a livello globale. Ed è molto interessante anche su un piano teorico per poi comprendere come poter potenziare queste lotte, è interessantissimo poter comprendere quello che stanno riuscendo a creare a livello politico e quello che potrebbero ancora fare.